ci sei, ma non tutti qui lo pensano, perché ormai ciò che conta è la realtà. Foglie al vento, l'inverno e un mare in tempesta non si ferma più. Ma tu sei lì e non guardi con l'indifferenza che abbiamo noi. E si sprecano parole, si parla di amore. Senza in fondo a un cuore risanato dal calore del tuo amore. Tu, il padre anche di più per tutti quelli che non ti conoscono, ma se ti cercano la vita tu darai. Padre, tu ci sei, non è solo una canzone a te. Non è questa mia canzone a dirlo, ma sei tu dentro me.